perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati. Ma ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi avere sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso. Ho camminato in equilibrio su di me, mischiando il tuo sorriso alle mie lacrime. Ma la coscienza non si spegne ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. E ho respirato sui tuoi battiti lenti e adesso vivi, sì, ma dentro un'immagine. Ricordo c'era il vento ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ci sarà il ballo delle incertezze, ci sarà un posto in cui perdo tutto, che per stare in pace con te stesso e col mondo devi avere sognato almeno per un secondo. E ci sarà tra la gente che aspetto chiunque ha rischiato tutto ed ha perso, che per stare in pace con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a terra te stesso. Sono i momenti quelli persi a dare un senso forse. Mi chiedi perché sono fragile, sono diverso forse. Ero un bambino e stavo in cortile, respiravo piano. Ho sempre rinchiuso vita e sogno nel palmo della mano. Sono presente ancora oggi al ballo delle incertezze, dove ti siedi e più sei poco più ti senti grande. Incontro me stesso e poi gli chiedo se vuole ballare. Ferma la musica che il silenzio adesso sa parlare. Con te stesso e col resto puoi provare a volare lasciando a te.